queste voci dolenti, simboli del mio fuoco, cifre delle mie pene, a voi dell'amor mio, testimoni fedeli, aure consegno. Dite a colei che tutta possiede del mio cor la miglior parte, quante volte vedeste scorrer ripianti dalle vostre pupille, e in quante guise oppresso con stupor rimiraste dai palpiti d'un barbaro dolore, balzarmi in petto agonizzante il cuore. Proferir queste voci a pie dell'idol mio, qualche pietade donerebbe cortese al mio martire. Qualche pietà, non mi distasse in sé, qualche pietà. Saresti troppo crude, saresti troppo tiranne.